English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera dedichiamo la nostra puntata di English 24 a un'attrice che amiamo molto e della quale si parla molto ultimamente, perché è stata molti anni fa la protagonista di Titanic, che ora è tornato in 3D. Ovviamente stiamo parlando di Kate Winslet. Siamo andati un po' a ricercare nella sua storia, anche nella storia del nostro English 24, per ripercorrere un po' le tappe fondamentali della sua carriera, senza tornare indietro al lontanissimo Titanic. Siamo andati a recuperare nel 2008 un'altra sua avventura con Leonardo DiCaprio, era Revolutionary Road, e in quell'occasione Kate Winslet ci raccontava com'era la chimica con Leonardo DiCaprio. We're very fortunate to have the chemistry that we have and the history that we have and the trust that we have, you know. It's one thing to play those scenes with an actor and to really try your best to make it as honest and as believable as possible, but to play those scenes with an actor whom you know you have no boundaries, there are no boundaries whatsoever, you can try absolutely anything and not be afraid to really hurt that person, you know. I would just want for Leo to always feel like he could do whatever he felt he needed to get his performance across, and just wanting to, you know, give as good as you get, you know, that's one of the great joys of acting. Sì, Giulia, è proprio una vera e propria chimica tra i due. C'è questa parola, questa chemistry, che tu hai giustamente tradotto con chimica, noi lo usiamo, forse lo useremo sempre di più, in inglese invece è proprio un'espressione tipica per dire che due persone vanno d'accordo, quindi c'è chimica tra di loro, come due, appunto, due molecole che si incastrano alla perfezione, quindi fortunate to have the chemistry, the history and the trust. Quindi la storia e anche la fiducia, direi, l'uno nell'altro. Per il fatto di avere tutta questa fiducia l'uno nell'altro, non ci sono stati in un certo senso confini nella loro intesa e nella loro partecipazione al film? Sì, lei dice, quando si recita, quindi you played those scenes, quando reciti queste scene, with an actor whom you know, cioè quel whom è l'accusativo, è il pronome nella sua forma accusativa, che spesso viene semplificato in who, non sarebbe scorretto dire an actor who you know, ma è più corretto, più inglese, più forbito dire whom you know. E quindi there are no boundaries whatsoever. Whatsoever è proprio di nessun tipo, diremmo noi in italiano, nessun confine. Si sentiva così bene con Leo che parla di una delle grandi gioie della recitazione. Naturalmente, appunto, essendoci questa grande trust, you get your performance across, quindi to get something across vuol dire far arrivare, riuscire a fare nel modo giusto, quindi riesci a fare il tuo ruolo da attore, and it get as good as it gets, cioè al meglio delle tue possibilità, e questa è one of the great joys of acting. Joys, naturalmente gioie, può anche essere joys of cooking, ci sono dei libri che si chiamano così, proprio le gioie della cucina, e qui sono le gioie del recitare. Se non ricordo male, per Revolutionary Road arrivò per Kate un Golden Globe, ma l'Oscar arrivò per The Reader. Ok, that fainting thing, Penelope. I'd be lying if I haven't made a version of this speech before. I think I was probably 8 years old and staring into the bathroom mirror, and this would have been a shampoo bottle. Well, it's not a shampoo bottle now. I feel very fortunate to have made it all the way from there to here, and I'd like to thank some of the people along the way who had faith in me, my friends and my family, especially my mum and dad, who are in this room somewhere. Dad, whistle or something, because then I'll know where you are. Yeah! And I'm so lucky to have a wonderful husband and two beautiful children who let me do what I love and who love me just the way that I am. Allora Giulia, intanto Kate ha citato Penelope Cruz, che ha praticamente ricevuto l'Oscar poco prima di lei come migliore attrice non protagonista. E cosa dice Kate? Penelope, come dice Kate, perché sapete che in inglese se qualcosa finisce con la E bisogna leggerlo come I, quindi Nike diventa Nike e Penelope diventa Penelope. E quindi Kate le dice, what was that fainting thing, Penelope? Perché non so se magari qualcuno l'ha visto, ma Penelope Cruz, che a sua volta aveva preso l'Oscar come migliore attrice non protagonista, protagonista aveva accennato che stava per svenire. Quindi that fainting thing vuol dire quella cosa che hai detto sul fatto di svenire. To faint vuol dire svenire. E poi parla di una cosa di cui parlano molti attori e molte attrici e dicono: quando io questo discorso lo facevo già da bambino. Si dice, insomma, non sarei sincera, I'd be lying, cioè starei mentendo, mentirei, se dicessi che I haven't made a version of this speech, che non ho fatto non ho preparato una versione di questo discorso, ma non la sera prima o una settimana prima o quando sono state annunciate le nomination, no, before I think I was 8, prima addirittura che io avessi 8 anni, perciò proprio un sogno di bambina che diventa realtà. Ed è una cosa carina perché lei proprio ce lo racconta come era questo sogno. Quando appunto aveva circa 8 anni, she was staring into the bathroom mirror, quindi si guardava nello specchio del bagno e non certo nella telecamera che invece la inquadrava e nei grandi schermi che la riprendevano a tutta grandezza nella sala dove si sono consegnati gli Oscar. E poi naturalmente non avrebbe avuto, lei dice, non avrei avuto l'Oscar in mano, but that this would have been a shampoo bottle, cioè avrei fatto finta che l'Oscar fosse una bottiglia di shampoo. Noi diciamo shampoo e ovviamente invece gli inglesi pronunciano quelle due O come una U. E lei ha fatto un bel viaggio in un certo senso da quel punto a questo punto. E qui usa una parola che in America si usa poco e mentre si usa molto di più in Inghilterra, cioè gli americani dicono più spesso to be lucky e invece lei proprio usa il fortunate, che vuol dire fortunato naturalmente, quindi ci dice io mi ritengo very fortunate to have made that journey from there, da quel punto lì davanti allo specchio del bagno quando non avevo 8 anni, to here, qui invece con il vero Oscar in mano. E ringrazia my mom and dad, mamma e papà, e poi fa una cosa carina, perché diciamo che gli attori fanno sempre delle cose, cercano di inventarsi sempre qualcosa che poi possa rimanere negli annali delle cerimonie degli Oscar. Lei cosa ha combinato? Beh, avete visto che insomma la sala era enorme, quindi lei forse anche per l'emozione non riusciva a vedere bene dove fossero mom and dad, la mamma e il papà, e quindi dice dad whistle or something, fischia, fai qualcosa, perché così posso sapere dove sei. E infatti subito dopo si sente il fischio e lei lo indica. E poi ringrazia i figli. Questo è molto bello, insomma, sia i figli che il marito. E dice lui ai miei figli, let me do what I love, cioè mi lasciano fare ciò che amo e soprattutto they love me just the way that I am, mi amano così come sono. Ultima tappa nella storia di Kate Winslet, almeno per la nostra puntata di English 24, Carnage, Roman Polanski, lo scorso anno a Venezia. I suppose when you are a parent and come from a very big, very close family, like I do, I think it's just part of your emotional makeup. I suppose I have found myself subconsciously drawn to these types of stories that include everybody. They include every family member. They include the complexities of a family dynamic. And being a parent myself, I'm familiar with school playground politics and how complex that can be, and sometimes how ridiculous that can be. And so when Roman approached me about being involved in God of Carnage, first of all, when Roman Polanski invites you to join him in any project, you really don't say no. Qui, secondo me, spiega in modo molto chiaro come è nata la dinamica di questo Carnage, anche riferendosi alla sua vita privata. Tra l'altro, lei ha un accento chiaramente inglese, I suppose, when you're a parent. Però è interessante, io l'ho visto sia in italiano che in originale, perché lei nel film ha effettivamente un accento americano, non fortissimo, e infatti alla fine del film appare la scritta Dialect Coach for Miss Kate Winslet, cioè lei ha avuto un allenatore di dialetto, perché comunque ha dovuto trasformare, ha voluto probabilmente, o Roman Polanski le ha chiesto di parlare con un accento più americano, perché nella trasposizione di Roman Polanski questa scena, questo interno di due coppie si svolge a New York. E lei spiega che insomma è una storia che alla base c'è un disguido tra due bambini, e quindi dice quando si viene da una grande famiglia come la mia, very big and very close family, è come se I found myself subconsciously drawn to be drawn to something, essere attratti da qualche cosa. È una conseguenza naturale del fatto che